cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, questi i temi che affronteremo oggi. Nella prima ora parleremo di pensioni, l'età della pensione alza sempre di più, ci toccherà lavorare fino a 70 anni e vogliamo dare anche voce al movimento per il riscatto gratis della laurea. Ne parleremo con Renata Polverini, vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera di Forza Italia, il sottosegretario dell'Economia e Finanza Pierpaolo Baretta, Irene Tinagli, deputata PD, c'è contrasto nel PD, Luigi Napoletano, promotore del movimento riscatto della laurea gratis, il sociologo Domenico De Masi e il giornalista del Sole 24 Ore Davide Colombo. Dopo le 9 invece l'appuntamento con il nostro spazio dedicato alle vacanze, i bambini d'estate, i compiti che stressano i ragazzi e che devono essere terminati prima della riapertura delle scuole, le ripetizioni estive e poi anche che cosa fanno i nostri figli. In passato si mandavano in colonia, ora si mandano ai campi e ai centri estivi. E qui chiediamo anche ai nostri radioascoltatori di intervenire per segnalarci le difficoltà, 800 24 0024, mentre per i nostri sms 349 238 6666. Ne parleremo con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, e il professor Maurizio Parodi, autore del libro Basta Compiti. Poi un po' di gossip, vediamo quali sono le tendenze della moda, ma questo proprio nell'ultima parte. Adesso io direi di dare la linea alla regia e poi di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Ma cos'è quest'estate? E diamo subito il benvenuto a Renata Polverini, deputato di Forza Italia, Commissione Lavoro. Si parla molto di pensioni in questo periodo, c'è qualche polemica sulle pensioni dei parlamentari riguardo al presidente dell'INPS Tito Boeri, e c'è anche qualche difficoltà a capire quando andremo in pensione. Renata Polverini, intanto, che cosa risponde a Tito Boeri, che ieri ha detto che il Parlamento prende in giro gli italiani perché la Camera non ha consegnato le liste dei parlamentari e di quanto versano uno a uno, ma ha dato un cumulativo, no, di quanto versano tutti i parlamentari? Sì, intanto buongiorno a tutti. Ma cosa rispondo? Quello che ho sempre risposto, nel senso che Boeri deve occuparsi della gestione dell'istituto, deve farlo funzionare, è stato nominato per quello e non sicuramente per occuparsi di questioni che non lo riguardano, a cominciare dalle pensioni dei parlamentari. Ieri gli hanno risposto già i questori, ricordando a Boeri che l'istituto non interviene in quelle che sono le pensioni dei parlamentari, se ne occupa direttamente la Camera, e soprattutto è stato chiarito che sul sito istituzionale della Camera ci sono i contributi previdenziali, come del resto sul sito dell'INPS per gli italiani, nella somma chiaramente intera e non relativa a ciascun parlamentare. Io mi auguro che Boeri voglia, prima che scade il mandato, purtroppo è ancora molto lungo, occuparsi veramente dell'istituto ed evitare di fare polemica politica, che è una questione che non lo deve assolutamente riguardare. Ma lei non pensa che gli italiani vorrebbero conoscere quanto ogni parlamentare versa in modo tale da calcolare poi la sua pensione o il suo vitalizio? Ma io non credo assolutamente che agli italiani interessa questo. Noi abbiamo fatto una riforma dei vitalizi che non ci sono più, ci sono delle pensioni con il metodo retributivo già dal 2012, abbiamo votato non più tardi della scorsa settimana alla Camera addirittura una legge pericolosissima per gli italiani, perché prevede il ricalcolo a ritroso, cioè una norma retroattiva sulle pensioni che prima o poi, io mi auguro, non verrà mai utilizzata per ricalcolare la pensione di 20 milioni di italiani. C'è stato un intervento in aula del Presidente della Commissione Damiano, della Commissione Lavoro, che ricordava proprio questo, una norma fatta male che rischia appunto di creare un precedente pericolosissimo per le pensioni degli italiani. Ecco, gli italiani forse si aspettavano in questa legislatura che si ponesse qualche rimedio alla sciagurata riforma Fornero, per la quale invece purtroppo abbiamo soltanto fatto dei provvedimenti sicuramente importanti che riguardavano gli esodati, ma non siamo andati a toccare tante di quelle questioni che pure erano state dichiarate un errore dallo stesso ministro che l'aveva messa in campo. Onorevole Polverini, io so che lei ci deve lasciare, per questo la volevo trattare. Sì, perché vado in commissione a proposito di che cosa parlerete oggi? Oggi ci sono le nostre interrogazioni, le cose diciamo per le quali ogni parlamentare chiede al governo insomma delucidazioni. Sì, ma adesso c'è l'ipotesi addirittura di andare in pensione a 67 anni e c'è anche questo movimento per il riscatto della laurea, insomma... C'è una speranza di non dover andare in pensione magari a 70 anni, perché qui più si va avanti e più si aumenta l'età pensionabile? Sì, guardi, ecco, su questo magari il contributo di Boeri poteva essere un po' più preciso. Tenga presente che noi sono ormai da quando è stato eletto, che lo inseguiamo quasi settimanalmente per farci dare i dati, per proporre una legge che magari modifichi anche questo, invece il professor Boeri non risponde mai a quelle che sono le richieste del Parlamento legittime, perché mentre lui chiede a noi dei dati in maniera illegittima, noi legittimamente chiediamo a lui dei dati che lui puntualmente non ci dà. Noi abbiamo sottoscritto come gruppo di Forza Italia, tutti i parlamentari, un appello lanciato dai presidenti delle commissioni di Camera e Senato, delle commissioni lavoro, Sacconi e Damiano, che chiedono appunto un intervento affinché venga bloccato per esempio l'aumento che dal prossimo anno vedrà gli italiani andare in pensione a 67 anni. Primo, perché lo riteniamo ingiusto; secondo, perché non è vero che in Europa vanno in pensione più tardi di noi; terzo, perché abbiamo dei dati dell'occupazione che fanno ancora fatica a tornare positivi, e io penso che ci sono tanti giovani che potrebbero trovare un lavoro se persone stanche, che non ce la fanno più a lavorare e che hanno versato tanti contributi, potessero accedere appunto all'età pensionabile. Purtroppo noi siamo sempre presi da discussioni molto ideologiche quando parliamo di pensione, non ci siamo mai concentrati su alcune questioni di merito come questo. È stato lanciato un appello importante da due presidenti, non mi pare che abbia avuto l'eco che meritava. Proviamo a lavorare per questo. Ricordo agli italiani che nel documento di programmazione economica e finanziaria di 2 anni fa si parlava di un dato che fa impressione, perché si diceva che dalle riforme delle pensioni messe in campo dal governo Maroni, quindi dal 2004 e fino al 2050, che non è lontanissimo, si risparmieranno 900 miliardi, cioè 60 punti di PIL. Ora io mi domando se nell'ambito di questi risparmi non è possibile per un paese serio mettere in campo alcune modifiche proprio per impedire che gli italiani vadano in pensione così tardi. Le chiedo un attimo di aspettare, perché volevo far intervenire Davide Colombo, che è il giornalista del Sole 24 Ore che si occupa di pensioni. Abbiamo sentito l'onorevole Polverini, però ci sono molti messaggi contro la casta, onorevole Polverini, glielo devo dire. E Davide Colombo, quando andremo in pensione? Primo, qual è la nostra aspettativa? E secondo, questi dati dei deputati, perché spieghiamo che c'è un contrasto istituzionale tra quelli che sono i deputati, e quindi la Camera dei Deputati, che è l'organo legislativo, e quello che è un istituto di previdenza, no? C'è quasi un'invasione di campo, per questo i deputati hanno detto di no. Però insomma, quanto poi alla fine ha ragione Boeri a farsi dare i tabulati dei deputati uno per uno, Davide? Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori anche da parte mia. Ma diciamo che quella che è posta sulla vicenda dei vitalizi da parte del presidente dell'INPS è una questione più di trasparenza che potremmo paragonare alla richiesta di trasparenza che in molti altri contesti è stata avanzata, per esempio la trasparenza sulle retribuzioni dei top manager delle aziende piuttosto che delle banche. I vitalizi sono una cosa un po' diversa dalle pensioni. Noi in questi anni abbiamo visto nella polemica politica spesso accostare questi due oggetti, ma si parla appunto di trattamenti molto diversi, per cui c'è un nodo di opportunità e adeguatezza da una parte di questi trattamenti, di trasparenza su, appunto, sulle remunerazioni dei deputati nella loro vita parlamentare e sul vitalizio futuro, che come dire, se, dal mio punto di vista, mi occupo di pensioni da molti anni, è un po' come mescolare capre e cavoli, ecco, dico la verità, nel senso che la spesa pensionistica è una cosa, la contribuzione lavorativa è una cosa, il calcolo contributivo applicato appunto a una carriera lavorativa ha un senso, una logica, una sua, come dire, ma produce degli equilibri attuariali di lungo periodo, ha una ruolo di equilibrio attuariale e di equità redistributiva tra generazioni e tra redditi diversi. I vitalizi sono una cosa completamente diversa, sono dei riconoscimenti fatti ai parlamentari dopo un periodo parlamentare che in molti casi non va oltre una o due legislature, anche se abbiamo conosciuto parlamentari di ben lunga lena, e quindi sono fattispecie molto diverse. Insomma, per quel che invece mi chiedevi sull'età di pensionamento, diciamo che l'età di pensionamento si parla in questa parte dell'estate, in particolare dei cosiddetti millennials, cioè quelli che sono nati nel 1980, ecco, per costoro diciamo che la prospettiva di pensione anticipata nel 2050, quando loro andranno in pensione, è attualmente dovrebbe essere sui 66 anni e mezzo, una pensione di vecchiaia, cioè una sì, insomma, di anzianità non ci sono più. No, le pensioni solo per gli usuranti. Le pensioni di anzianità sono state abolite dalla riforma Fornero. La pensione anticipata è quella che si raggiunge a prescindere dall'età anagrafica e solo con i contributi versati. In questo caso dovrebbero essere circa 45 anni e mezzo di contributi versati, e si va in pensione a 66 anni e mezzo, 66 anni, scusami, e 5 mesi. Con la pensione di vecchiaia si andrebbe in pensione, sempre per i nati nel 1980, a 69 anni e 5 mesi. Nei casi, diciamo, sfortunati di coloro i quali non raggiungessero una pensione minima di 1,5 volte l'assegno sociale, cioè 620 euro netti, c'è il rischio che si debba lavorare fino a 73 anni e qualche mese. Insomma, moriremo al lavoro, moriremo stroncati da infarto al lavoro. Ecco, questi sono i casi limite. Ecco, se vuoi poi ti dico, rispetto a questi requisiti limite, quali sono i flussi reali, cioè come si va in pensione realmente, come si è andato in pensione realmente in questi anni, e ci si è pensionati per molti anni con età molto diverse. Noi teniamo conto che i cosiddetti millennials, cioè i 35-40 anni che adesso sono al lavoro, stanno pagando le pensioni di chi è andato a pensione, per esempio, nei 20 anni che sono passati dalla riforma Dini a oggi. Certo, certo. Allora Davide, siccome il discorso è molto complicato e molto articolato, ti rimando un attimo all'intervento di Domenico De Masi e la replica di Renata Polverini, che poi ci deve lasciare. Domenico De Masi, professore ordinario di sociologia del lavoro alla Sapienza, autore del libro Lavorare gratis, lavorare tutti. Per lei il problema è proprio che non c'è il lavoro. Qui invece Davide Colombo ci sta dicendo che lavoreremo fino a 73 anni, professore. Dunque, intanto bisogna tener conto che quando fu introdotta la pensione a 55 anni per la donna e 60 anni per gli uomini, si viveva mediamente 58 anni. Quindi la fortuna dell'INPS fu data dal fatto che pagava poche pensioni, perché prima di andare in pensione la gente moriva. Ora noi viviamo circa 700.000 ore. In questo momento, fra 15 anni, nel 2030, vivremo 750.000 ore. Bisogna tener conto di questi dati per capire come si spostano le cose. Ecco, lei prima diceva 73 anni, quindi moriremo prima di andare in pensione. No, a 73 anni avremo ancora 20 anni di vita da vivere da pensionati, e queste sono le differenze forti. Ma tutta la nostra discussione si basa sul fatto che noi non teniamo conto dell'elemento di fondo, cioè i fondi pensione sono tratti dal numero dei lavoratori che lavorano. Ora i lavoratori che lavorano sono sempre di meno, e invece il prodotto che producono è sempre di più. Se i fondi pensione si ricavassero dai prodotti che noi creiamo, dalla ricchezza che i lavoratori creano, e allora ce ne sarebbe la sufficienza. Invece si detraggono solo dal numero dei lavoratori che decresce, e questo fa sì che da una parte i datori di lavoro hanno sempre più soldi, cioè che la ricchezza si addensa sempre più in pochissime mani. In Italia 10 famiglie hanno la ricchezza di 6 milioni di italiani, e d'altra parte non ci sono i soldi per le pensioni. Io devo dire, spezzo una lancia a favore di Tito Boeri, altro che, mi sembra che dopo il mitico Gianni Biglia sia stato il presidente dell'INPS più efficace per il lavoratore, cioè sì, ragiona dalla parte del lavoratore. Cioè se ne frega parte della casta, come dicono i nostri radioascoltatori, appunto, nei copiosi SMS che stanno arrivando. La interrompo perché so che appunto l'onorevole Polverini deve andare in commissione, allora una replica. Senta onorevole Polverini, lavorare fino a 73 anni, fino a 80 anni, il vostro leader lo sta facendo, Silvio Berlusconi, lui non va in pensione, lui è eterno. Allora lei la spaventa questa cosa, come facciamo? Perché poi si pone un problema anche nei confronti dei giovani, contributivo per tutti, mi dicono, anche per i parlamentari, mi chiedono gli SMS, no, gli SMS dei radioascoltatori, ci sono SMS anche provocatori. Mi dispiace dover, come dire, confermare per l'ennesima volta, ma è un messaggio che non passa, che ormai c'è già il contributivo per i parlamentari dal 2012. Il problema è che non riusciamo a far passare questo messaggio, perché naturalmente i professori, a cominciare dal professor Boeri e adesso sento anche il professor De Mati, continuano in qualche modo ad occuparsi della nostra cassa piuttosto che di altre casse che magari hanno, come dire, condizioni dal punto di vista contributivo addirittura migliori. Quali sarebbero queste caste? Ma anche la casta, per esempio, dei professori universitari. Aiaiai, poi la faccio rispondere De Masi dopo, va bene. Dopo farà rispondere De Masi, ma ci conosciamo e quindi possiamo anche provocarci. Dico semplicemente che lui ha ragione anche sui dati, lei ha ragione anche sul fatto che ci sono persone grandi che vogliono continuare a lavorare. Infatti noi avevamo immaginato una riforma delle pensioni che comunque consentisse, per le persone che fanno lavori più pesanti, per chi comunque aveva un bagaglio di contributo, di uscire prima, e chi invece voleva poteva rimanere in forma volontaria più possibile al lavoro. Ecco, non si è voluto andare verso quella flessibilità in uscita, che in qualche modo poteva risolvere molti problemi sia per coloro che sono stanchi e vogliono accedere alla pensione, particolarmente le donne, no? Che più o meno poi si sovraccaricano anche di altro, e chi voleva rimanere rimane. In ogni caso noi non consideriamo la nostra una battaglia persa, non pensiamo che la Fornero sia intoccabile. Io penso che nell'ambito di questo, e soprattutto cercando, e qui sì che ha ragione De Masi, anche di mandare i giovani al lavoro e di ricominciare a parlare di politica dei redditi, perché quello che diceva De Masi è un concetto importante. In un paese dove non c'è più una redistribuzione del reddito, le retribuzioni si impoveriscono, qualche giorno fa l'Istat ci ha detto che sono tra le più basse d'Europa, chi ha soldi ne ha sempre di più, ecco, forse è un paese che deve ritornare a vecchie parole, perché magari politica dei redditi, ridistribuzione del reddito sembra una parola antica, ma che invece ha a che fare con problemi nuovi. Allora ringraziamo Renata Polverini, però ecco, devo dire che prima di dare la linea alla regia ci sono molte domande. Chi assumerebbe un programmatore di 60 anni? In azienda ci scrivono, siamo tutti cinquantenni e i vertici dicono che vogliono svecchiare i dipendenti. Soprattutto a 70 anni come posso fare il programmatore? Ci chiedono. Queste sono le domande che poi faremo ai nostri ospiti subito dopo la pausa. Ma cos'è quest'estate? E torniamo a parlare di pensioni. Professor De Masi, abbiamo sentito i nostri radioascoltatori che dicono: ma chi assume un programmatore di 70 anni in azienda, 50 anni, già vogliono mandare via tutti, vogliono assumere i giovani. Ecco, questo è un problema. Quindi noi stiamo parlando di età pensionabile sempre più alta, ma poi di aziende che vorrebbero sempre più giovani, con una curva demografica sempre negativa. Quindi è un cane che si morde la coda. Noi dobbiamo tener conto che esistono tre tipi di lavoro, Purtroppo con la parola lavoro indichiamo cose diversissime tra di loro. Diciamo che un facchino lavora, un metalmeccanico lavora, un minatore lavora, un giornalista lavora, un professore lavora, un artista lavora. Allora io distinguerei almeno tre tipi di lavoro: i lavori usuranti, quelli di un operaio che fa sforzi fisici tutto il giorno e che riguarda circa un terzo della popolazione lavorativa italiana. Poi ci sono i lavoratori che lavorano con la testa, i lavoratori intellettuali ma che fanno lavori esecutivi, come per esempio il bancario allo sportello, è un altro terzo di lavoratori. E poi c'è un terzo che è costituito dai lavoratori creativi, il professore, lo studente, il professionista. Sì, che però un'età comunque hanno capacità. No, però lei dice, perché insomma noi sappiamo che tutti i fisici per esempio hanno le idee prima dei 20 anni, no? I matematici. No, non è affatto vero, ho scritto un libro sulla creatività. Ci sono persone che a 72 anni Michelangelo era Michelangelo però di San Pietro. Ma anche gli altri così. No, non c'è correlazione tra alcuni tipi. Per esempio un giornalista scrive molto prima, molto meglio a 60 anni che non a 25 anni. Sono cose diverse. Il lavoro creativo non dovrebbe avere né orario di lavoro né limite di pensionamento. Perfetto, professore, un attimo la devo interrompere perché abbiamo in linea intanto il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza Pierpaolo Baretta del PD. Buongiorno sottosegretario. Allora, stiamo parlando di pensioni, ci sono state un pochino di polemiche con Boeri ieri sulle pensioni dei parlamentari che vorrebbe scorporate una ad una, volevamo sapere qual era il suo pensiero su questo. Poi c'è un allarme di troppe pensioni che vengono erogate all'estero e con eccessivi trattamenti assistenziali in Italia, cioè pensionati che vivono all'estero e però poi usufruiscono dei trattamenti assistenziali italiani, quindi c'è un incrocio tra queste due cose. Questi sono i due allarmi lanciati da Boeri. E poi noi abbiamo saputo che lei, al contrario di Irene Tinagli che è in linea con noi, è favorevole o comunque apre al possibile riscatto della laurea gratis. Ecco, queste sono le nostre domande per lei, sottosegretario. Ma guardi, sulla prima la mia opinione da tempo è molto, molto semplice. Io penso che le pensioni dei parlamentari dovrebbero, come per tutti gli altri cittadini, essere dentro il sistema INPS. E quindi chiudere questa vicenda nel modo più semplice possibile, ma anche più giusto. Noi siamo cittadini come gli altri, negli anni in cui si fa i parlamentari, se non si hanno altri lavori e altre pensioni, è giusto che ci sia una forma di pensione, e allora perché avere un sistema diverso da quello degli altri lavoratori, sistema contributivo dentro l'INPS, eccetera. Per quanto riguarda invece i cittadini che vanno a vivere all'estero, questo credo che sia un problema, credo che sia giusto affrontarlo cercando di capire bene le situazioni specifiche, ma insomma in qualche modo lo Stato italiano eroga pensioni che sono certamente l'esito di anni di lavoro, e quindi il diritto soggettivo è fondamentale che venga riconosciuto, però l'incongruenza c'è e quindi bisognerebbe affrontarla capendo bene quali sono gli effetti negativi anche per lo Stato e porre anche un problema, direi anche di moral suasion prima ancora che normativo, anche se credo che abbia fatto bene chi lo ha sollevato, perché francamente. Quindi le quattordicesime, le famose quattordicesime non dovrebbero essere erogate? Questo un po'. La soluzione di merito va studiata come tutte le questioni di merito con molta attenzione. Diciamo che il problema di usufruire dei servizi italiani mentre si vive, non nel senso che si vive personalmente, ma non si pagano le tasse in Italia, questo rappresenta un problema effettivo. Sulla terza considerazione, quella del riscatto della laurea, ma io, guardi, mi ci sono avventurato, per usare un'espressione che la collega Tinagli ha usato questa mattina nella sua intervista, mi sono avventurato perché noi da tempo parliamo di alternanza scuola-lavoro, considerando che questo è un sia per favorire anche una mobilità anche culturale dentro il lavoro di scambi. Perché la parte, innanzitutto, perché la parte dell'alternanza relativa al lavoro non dovrebbe essere riconosciuta come condizione lavorativa? Primo elemento. Secondo, non c'è dubbio che oggi il riscatto della laurea costa ed è in una quantità proibitiva addirittura. Vogliamo tenerne conto e provare ad andare incontro soprattutto alle persone giovani, partendo da loro ovviamente, poi so che anche questo è un punto su cui si è discusso, perché sono quelle che anche più difficilmente incrociano immediatamente il mercato del lavoro e quindi potrebbero avere una, diciamo, una difficoltà a costruirsi una pensione. Dopodiché è chiaro per tutti, per il governo innanzitutto, che la priorità è l'occupazione, ma questo non significa non discutere della condizione giovanile in senso compiuto. Irene Tinagli del PD, stesso partito di Pierpaolo Baretta, però qui c'è un contrasto, lei è assolutamente contraria al riscatto della laurea, perché? Ora, io non è che è un contrasto, che facciamo una lotta, sembra che sia una lotta all'ultimo sangue. Insomma, nel PD ci sono queste lotte, però. No, non ci sono lotte, non nel nostro caso. Sicuramente non c'è una lotta tra me e il sottosegretario Baretta, nel senso che mi sembra normale che si discuta anche in visione, in previsione della prossima legge di bilancio, quindi su come investire le risorse. Noi sappiamo che avremo dei margini, tra l'altro anche abbastanza limitati, però insomma, di intervento che vorremmo dedicarli alla questione dei giovani, alle questioni problematiche dei giovani, e quindi su questo siamo tutti d'accordo, quindi tutto il Partito Democratico è d'accordo e tutto il governo è d'accordo su questo. Mi sembra normale che si discuta su come intervenire, dove metterle queste risorse. Infatti, cioè, il problema è qui, chiaramente, se fossimo un paese con risorse illimitate e un debito pubblico al 60%, probabilmente non si porrebbe neanche tanto problemi, nel senso si potrebbero fare tante cose contemporaneamente. Siccome non siamo in quelle condizioni, ci dobbiamo chiedere come è meglio spendere i soldi. Il problema del riscatto della laurea, su una questione, ha ragione il sottosegretario, che oggi le condizioni di riscatto sono diciamo molto difficili, perché comunque sono costose, molti giovani quando finiscono non sono in grado di sostenerle, quindi perdono questa opportunità, ma lì su quel fronte si può intervenire con degli accorgimenti magari meno costosi, magari dando la possibilità di riscattare più tardi quando ci sono delle condizioni migliori, o farlo a rate. Era già stato fatto un intervento nel 2008 dall'onorevole Damiano. E quindi su quel fronte qualcosina si può fare. Io personalmente, ecco, quando mi è stata chiesta dal Corriere la mia opinione, non sono favorevole all'idea di un riscatto completamente gratuito per i millennials, perché prima di tutto non ci risolve appunto l'urgenza dell'occupazione giovanile adesso. E poi perché effettivamente è una misura che riguarderebbe una piccola fascia di persone, sarebbe quindi discriminatoria nei confronti di chi magari ha già pagato il riscatto, nei confronti di chi magari si è laureato un mese prima, un mese dopo, credo che creerebbe anche dei problemi di ricorsi, eccetera. È molto costosa e soprattutto andrebbe a vantaggiare una fascia di persone tutto sommato limitata, che è già una fascia di persone, noi lo sappiamo dalle indagini, dalle statistiche, che è già più avvantaggiata. All'università ci vanno i figli delle famiglie con background medio-alto, sono pochissimi i giovani di famiglie più umili, di ceti più bassi, che riescono ad andare all'università. Quindi secondo me, se noi vogliamo affrontare il problema, e poi tra l'altro sono proprio quelli, tipicamente sono quelli che non vanno all'università, che hanno più problemi di inserimento lavorativo, di stabilità di vita lavorativa. Quindi io personalmente interverrei più su quello, magari supportando di più l'ingresso nel mondo del lavoro e eventualmente anche all'università, quindi aumentando le borse di studio. Lei pensi che il fondo per le borse di studio, che comunque noi abbiamo aumentato, perché abbiamo aumentato di 55 milioni per quest'anno, ma in tutto sono 200 milioni 17 cioè, milioni se non ricordo male. Non al riscatto della laurea, ma sì al fatto di produrre delle agevolazioni per chi vuole studiare all'università. Questo, insomma, rendere equo il sistema in partenza, non in arrivo. Questa è la sua tesi. Luigi Napolitano, promotore Movimento per il riscatto della laurea gratis. Abbiamo sentito Pierpaolo Baretta, sottosegretario, apre un po'. Irene Tinagli dice no, facciamo più borse di studio, così possono studiare tutti, non riscattare la laurea solo chi ha avuto la possibilità di fare l'università. Lei che cosa risponde? Ma io prima di tutto buongiorno a tutti, ringrazio di avermi invitato. Diciamo, io ho ascoltato le due interviste e su una cosa sono sobbalzato. L'onorevole Tinagli dice che i laureati hanno più soldi o comunque vengono da situazioni più agiate rispetto ai non laureati. Non è così assolutamente. Io invito l'onorevole Tinagli ad aggiornarsi e a verificare gli ultimi dati di alcune ricerche in cui si dice proprio che i laureati appena diciamo dopo la laurea hanno più difficoltà a trovare lavoro. Anzi, mi è piaciuto un'espressione del sociologo De Masi che ho ascoltato qualche giorno fa, in cui diceva che oggi non c'è più l'ascensore sociale. L'università permetteva prima il riscatto sociale, quindi la salita nella classe sociale. Oggi non è più così, anzi c'è un impoverimento, no? Il messaggio che sta passando dovunque è che non conviene più laurearsi e non è convenuto a chi si è laureato. Ecco, non è convenuto a chi si è laureato. Pierpaolo Baretta, sottosegretario, che cosa risponde a Luigi Napolitano? Quindi questo riscatto della laurea in realtà ha delle radici profonde anche dal punto di vista sociale. Ma insomma, l'evoluzione del mondo del lavoro è così forte, tumultuosa, che pensare che la partecipazione al lavoro, in questo caso a chi frequenta l'università, e ripeto, il concetto di alternanza è un concetto sul quale stiamo lavorando, che la partecipazione al lavoro inizi formalmente quando si prende il primo stipendio, che talvolta è anche molto spostato in avanti nel tempo, potrebbe consigliare a riflettere in chiave strategica sul fatto che anche gli studi universitari possono essere considerati una specie di apprendistato all'attività lavorativa. L'apprendistato è un istituto diciamo storicamente importantissimo. Si tratta di avere una concezione, direi, più ampia dell'idea di lavoro, comprendendo anche in questo caso, secondo questa impostazione, anche una parte insomma della vita di studio, e dopodiché le soluzioni si trovano, sono molte le possibilità di studiare soluzioni. Tinagli ne indicava alcune, non si tratta di mettersi in un'ottica o questo o niente. Ma si tratta di dire, nel campo dell'assunzione della priorità giovani, e la priorità di tutto è offrire loro lavoro, valutare l'intera condizione. Quindi da questo punto di vista il riscatto della laurea è uno dei percorsi che va inserito. Credo anch'io che i giovani, al di là adesso se della condizione sociale di partenza, il problema vero è proprio che noi dovremmo favorire l'accesso all'università anche delle classi meno agiate, e tutte le forme che vanno in questa direzione vanno studiate e vanno in qualche modo favorite. Pensiamo ad esempio alle tasse universitarie, una parte di queste potrebbero essere, col sostegno pubblico, essere dedicate appunto a una copertura figurativa del percorso previdenziale. La carriera previdenziale deve essere una carriera unica nella vita. Abbiamo ad esempio ancora degli intoppi sul fatto che se uno cambia attività lavorativa fa fatica anche a ricongiungere i contributi, cioè oltre che costare molto la laurea costano anche la ricongiunzione. Ecco, non c'è solo l'età pensionabile quando si parla di pensioni, c'è tutto il percorso. C'è tutto un mondo. Ringraziamo allora il sottosegretario al Ministero Economia e Finanza, Pierpaolo Baretta, che ci ha illustrato anche la posizione del governo. Davide Colombo, un breve chiarimento. Si parla appunto dei millennials, quindi 1980. Noi del 1960 proprio non si calcola assolutamente. E si potrà fare magari in futuro da qui qui in avanti, pensare non agli anni 80, magari agli anni 90, al 2000, un riscatto possibile, perché per esempio nella nostra bellissima IMPGI ci parlano di una comoda rata che è assolutamente impensabile da pagare per il riscatto della laurea. Ecco, magari un prelievo dallo stipendio, come si potrebbe raggiungere questo risultato? Ma guarda, Elisabetta, su questo sono molto telegrafico. Diciamo che intanto il riscatto laurea che esiste già dal 2007-2008 e che oggi può essere pagato dai genitori del neolaureato prima che questo ha un contratto, viene rimborsato, diciamo, cioè viene pagato con un ratio decennale con importanti sgravi fiscali. C'è poca informazione, c'è poca cultura finanziaria, questa è una scelta, diciamo, di allocazione di risorse, di risparmio per il figlio neolaureato, non viene fatta, sono scelte di portafoglio che gli italiani non fanno. Più in là rispetto al giorno della laurea si fa il riscatto laurea, naturalmente più è oneroso perché ci sono delle stime attuariali che devono essere considerate rispetto al reddito da lavoro che si sta percependo, e quindi inevitabilmente costa. Parlare di gratuità del riscatto della laurea tradotto in termini pensionistici vuol dire semplicemente garantire un anticipo pensionistico ad alcuni soggetti che per esempio hanno fatto 4 anni di università. È tutto qui, cioè se tu dai uno sconto di 4 anni a uno che ha anche avuto la fortuna di potersi laureare, devi spiegare politicamente ma anche socialmente, secondo me, perché c'è questa disparità di trattamento rispetto a un giovane che ha invece iniziato a lavorare appunto in giovanissima magari dopo il liceo, dopo l'istituto tecnico è andato a lavorare, e quindi quello lì non avrà nessuno sconto sulla sua pensione, chiamiamola anticipata. Insomma, l'equità sociale, no? È quello che diceva Irene Tinagli. Grazie a Davide Colombo, giornalista del Sole 24 Ore, Domenico De Masi, abbiamo sentito che cosa succede nel mondo del lavoro, è esattamente il contrario di quello che dice lei, che bisognerebbe mettere più le tasse sui consumi poi che non sul lavoro. Questa è un po' la sua tesi e la tesi del suo libro Lavorare Gratis per Lavorare Tutti, giusto? Ma intanto io dico questo, noi quando parliamo di lavoratore immaginiamo un operaio metalmeccanico. Oggi bisogna capire che quando una persona studia sta lavorando, cioè i 4 anni dello studente sono 4 anni di lavoro a tutti gli effetti. Il 66% delle persone fanno lavori intellettuali, lavorano con la testa. Lo studente non è altro che un lavoratore che ha cominciato a lavorare per prepararsi poi ad altri lavori. Se passa l'idea che studiare è lavorare, finalmente lo studente verrà all'università tutti i giorni, farà gli esami come si deve, magari sarà costretto a firmare la presenza e così di seguito. L'altra cosa che dico è che noi abbiamo una percentuale di laureati che è veramente scandalosa. 23% è la stessa percentuale del Camerun, siamo gli ultimi in Europa come numero di laureati, gli studenti universitari sono appena il 40% dei loro coetanei, noi dobbiamo tendere al 100% come stanno facendo adesso stati come la California o come Seul o come Bangalore, e questo cambia completamente l'ottica con cui si pensa al riscatto della laurea, il quale riscatto c'è già. C'è, però devono pagare poi i genitori. Chi mi dice, un radioascoltatore, si è laureato e non ha i genitori, che cosa fa? Come lo paga questo riscatto? Laurea fanno dei regali banali, potrebbero fare questo, tanto più che possono un regalo di laurea 170 euro al mese per 10 anni, quindi si potrebbe fare. Ma intanto uno studente che, ripeto, non studia ma lavora, perché lo studio oggi è lavoro, ha tutto il diritto a riscattare questi anni di studio-lavoro, non perché fa le cose scuola-lavoro, quelle fregnacce lì che non servono a niente, ma perché lo studio in sé è lavoro. La ringrazio. Chiara la tesi. Insomma, Domenico De Masi dice: attenzione a distinguere troppo i piani. Professore ordinario di sociologia del lavoro alla Sapienza, è autore del libro Lavorare Gratis, Lavorare Tutti. Irene Tinaglia del PD, Tinagli, abbiamo sentito vari pareri. Ecco, il professor De Masi dice: studiare è lavorare, mentre lei dice: bisogna far sì che tutti quanti possano accedere all'università. E non se ne esce. Io credo che se noi siamo d'accordo su un problema, cioè che è il problema dei giovani che fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, del fatto che in Italia, qualcuno l'ha detto prima di me, si è bloccato l'ascensore sociale e l'università è uno di questi problemi, ma non solo e non tanto per le difficoltà di inserimento lavorativo, ma per il fatto che, dicevo prima, su questo ci sono i dati, ma io non cito a caso, ci sono tutte le analisi e i report annuali anche di Alma Laurea che fanno un'indagine accurata sul background familiare dei ragazzi che vanno all'università. La stragrande maggioranza dei ragazzi che vengono da famiglie umili non ci vanno proprio all'università, cioè non è che sono soltanto pochi quelli che si laureano, la stragrande maggioranza non ci va proprio ed è per questo che noi abbiamo, come diceva De Masi, una percentuale di laureati ridicola. Allora noi dobbiamo cercare di innalzare le opportunità per tutti, credo che questo sia adesso una priorità per il nostro paese, quindi aiutando non solo le borse di studio ma le prospettive di inserimento lavorativo, aiutando quindi anche con gli sgravi all'ingresso, sono una misura che si sta studiando e che trovo utile, aiutando la mobilità fisica. Noi abbiamo una percentuale altissima di ragazzi che non si muove, non si sposta dalla propria provincia perché chiaramente è costoso andare a cercare le opportunità in altre città, però è l'unico modo a volte per trovare un lavoro, trovare un'opportunità di qualificazione. Queste cose noi dobbiamo fare, dobbiamo aiutare e supportare i giovani nella ricerca dell'opportunità e su questo noi non stiamo investendo per niente. Io non credo che i giovani non vanno all'università perché poi non hanno la pensione più a 70 anni, cioè non credo che, se io ho insegnato a tanti giovani, nessuno mi ha mai detto quando mollavano l'università, mollo perché poi non posso riscattare la laurea. Mollano perché non ce la fanno, molti, certo. Non ce la fanno. Allora, siamo in chiusura, volevo da Luigi Napolitano, promotore Movimento per il riscatto della laurea gratis, per chi avete chiesto questo riscatto? Allora, torno a ribadire un concetto. Allora, noi abbiamo chiesto il riscatto della laurea per tutti, senza distinzione di età e senza distinzione di reddito. Come dicevamo, ho sentito alcuni pareri, è bene precisare ancora una volta che l'istituto del riscatto della laurea per fini pensionistici già esiste, ma attualmente è troppo oneroso. Secondo il nostro punto di vista, il riscatto gratuito della laurea sarebbe un giusto premio a chi ha investito in termini di tempo e denaro, perché laurearsi costa, cosa che tra virgolette è stata già detta anche da altri esponenti durante le interviste radiofoniche, per conseguire un titolo di studio che ad oggi non è spendibile per la crisi del mercato del lavoro e che probabilmente non darà neanche accesso alla pensione. Inoltre un altro vantaggio che si potrebbe avere dall'applicazione di questa nostra proposta è appunto l'agevolazione del turnover. Pensiamo a tutte le persone che sono all'interno lavorano ancora intorno ai 60 anni e che magari per gli acciacchi dovuti all'età hanno problemi e quindi vanno in malattia. Chi paga queste malattie? Allora, applicazione alla nostra proposta potremmo avere anche questo tipo di agevolazione. Poi ho sentito un altro discorso molto interessante, prima parlavamo, mi ha fatto piacere che il sociologo del professor De Masi ha detto quelle parole. Io voglio sottolineare una cosa: nel 1999 c'è un decreto ministeriale, 509/99, che ha chiarito una cosa, che lo studio universitario è lavoro a tutti gli effetti, in aula e a casa. Questo lavoro deve essere restituito sotto forma di contributi a chi ha conseguito una laurea. Addirittura c'è un parallelo in cui si equipara un CFU per ore di lavoro. Ogni CFU è uguale a circa 25 ore di lavoro, lavoro aula casa. Quindi il decreto ministeriale 509/99, quindi invito tutti a leggere anche questo decreto per capire che già la legge italiana stabilisce questo parallelo, quindi non stiamo inventando nulla di nuovo. Il fatto che non è sostenibile a livello di conti di INPS non vi spaventa? Guardi, questa è un'altra cosa che viene detta sempre quando... Allora, la verità è che in Italia, quando si tratta di concedere i privilegi e di salvare le banche senza chiedere niente ai cittadini, subito si fa e subito in Parlamento approvano la legge. Quando poi un gruppo, diciamo numerosissimo, di cittadini, stiamo parlando di 6 milioni di italiani, esprime manifestamente una richiesta, c'è subito chi cerca di zittirli e chi va in tutte le trasmissioni radiofoniche, televisive, a dire che non va bene. Non è questo il nostro caso, Luigi Napolitano, perché noi siamo favorevoli, bisogna capire se però si può poi sostenere il costo e il nostro sistema pensionistico può sostenere questo costo. Linea alla regia e noi ci risentiamo tra poco dopo il GR. Ma cos'è quest'estate? Tutti fanno storie ma solo sul cellulare. Ricordiamo le nostre estati al mare, le nostre estati quando praticamente avevamo 3 mesi di vacanze e poi però alla fine c'era sempre il punto interrogativo: hai fatto i compiti delle vacanze? Questo era l'incubo che i nostri genitori e che oggi come genitori facciamo ai nostri figli. È la domanda ricorrente verso la fine di agosto, perché magari prima pensiamo che i ragazzi debbano godersi il sole, il mare, il riposo, però la domanda poi arriva e arriva in momento in cui i bambini, i ragazzi sono magari rilassati e devono ripensare allo stress dei compiti. Ne parliamo con il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta dell'età evolutiva, nonché anche scrittore. Insomma, le strategie per finire i compiti in vacanza senza ansia. È possibile, professore? Allora, buongiorno a tutti, ma di per sé i compiti delle vacanze estive sono un impegno che si può essere spalmato in un tempo lungo, perché le vacanze durano 3 mesi e possono essere programmati, pensati, gestiti. Di solito quello che davvero poi diventa faticoso è un po' non pensarci, mettere da parte il pensiero dei compiti e poi arrivare a ridosso del primo giorno di scuola con magari tantissime cose ancora che devono essere fatte. Siccome i bambini non hanno la capacità, soprattutto i bambini più piccoli delle scuole elementari e un po' anche i preadolescenti, di programmare e gestire, il ruolo dell'adulto dovrebbe essere proprio quello di aiutare la programmazione, cioè magari fare una strategia di settimana per settimana cosa facciamo, lasciare magari al ragazzo, al bambino la libertà in quella settimana di gestirsi poi i compiti che sono stati assegnati per la settimana in autonomia. Quindi magari ci sono bambini che in un giorno li fanno tutti, così poi non ci pensano più, e soprattutto magari avere anche l'accortezza che quando però ci sono le 2 o le 3 settimane della vacanza familiare, cioè quelle in cui si parte, si va al mare, si sta tutti insieme, quella dovrebbe essere una zona franca, in modo che si possa godere di un tempo della famiglia, della vacanza, del riposo, un tempo libero totale dove questa cosa non contamina il modo di stare insieme di genitori e figli. Insomma, evitare la sindrome di Charlie Brown, no? Che si porta sempre tutti quanti i compiti fino all'ultimo minuto. Però c'è qualcuno che la pensa in maniera diversa. Maurizio Parodi, dirigente scolastico e autore del libro Basta Compiti. Cioè, per lei non dovrebbero proprio essere dati questi compiti, ma in vacanza o in generale? Buongiorno, no, i compiti possono essere evitati, insomma sono una iattura che potrebbe essere risparmiata agli studenti. Ci sono studi ormai classici che ne dimostrano l'inutilità. Nessuno peraltro ha mai dimostrato che i compiti, e soprattutto i compiti delle vacanze, per le vacanze siano necessari, utili. Non si capisce perché gli insegnanti debbano violare le disposizioni partite dal legislatore, che prevede un periodo di studio durante l'anno e un periodo poi di ricreazione, di rigenerazione, che viene assolutamente impedito. Di fatto viviamo questo paradosso: i soli a godere e beneficiare delle vacanze sono gli insegnanti, e ben oltre il periodo di ferie cui hanno diritto, mentre gli studenti e le loro famiglie sono gravate da un impegno stressante del quale, ripeto, nessuno ha mai dimostrato l'utilità. Io ho creato un gruppo Facebook, Basta Compiti, che è quello che sostiene la petizione online su change.org per l'abolizione dei compiti nella scuola cosiddetta dell'obbligo, ma ho creato anche un gruppo tecnico professionale del quale fanno parte oltre 500 insegnanti di ogni ordine e grado, che non danno mai compiti a casa e non danno compiti per le vacanze. insegnanti di filosofia, matematica, italiano, non solo della scuola primaria, e gli studenti dei quali hanno percorsi scolastici assolutamente regolari. Addirittura ricordo recentemente la testimonianza di questa insegnante di matematica che è stata, il cui impegno è stato apprezzato addirittura dai colleghi della scuola secondaria superiore, che solitamente lamentano l'incapacità di chi li ha preceduti. Quindi si possono ottenere risultati anche eccellenti, evitando questa pratica arcaica e irrazionale. Ripeto. Lei dice che non c'è bisogno dei compiti per memorizzare, per esempio una lezione di storia, se non si legge e si ripete, oppure di altre materie, non c'è bisogno assolutamente la matematica di fare le famose operazioni. Si può anche vivere senza compiti durante il resto dell'anno? No, perché sarebbe il ben godi per gli studenti italiani. Intanto chiedo anche ai radioascoltatori se vogliono intervenire: 800 24 0024, oppure 349 per gli sms 238 6666. Ecco, lei dice anche durante l'anno si possono evitare i compiti. Sì, e le ripeto, il gruppo Facebook a cui ho fatto riferimento, docenti e dirigenti compiti zero, ne è la prova vivente. I compiti a casa possono essere evitati se si evita la lezione frontale, ad esempio, come previsto dalle indicazioni nazionali per il curriculum, e quindi si consente agli studenti di imparare e di imparare a scuola, nel luogo deputato all'acquisizione di queste competenze, mentre normalmente si costringono i genitori ad assolvere un ruolo improprio di insegnanti di complemento, laddove i genitori ci siano e siano in grado di sostenere l'impegno dei figli, e naturalmente questo aggrava la condizione di chi sia già svantaggiato, anche socialmente. Non a caso in Francia il ministro ha proposto un prolungamento dell'orario scolastico per consentire agli studenti di svolgere l'attività di studio a scuola ed evitare quindi le discriminazioni sociali che si determinano a seguito dell'assegnazione indiscriminata dei compiti. Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile comunicazione di scuola.net, la parte degli studenti. Vi piacerebbe una scuola senza compiti? Assolutamente sì, ragazzi, mi piacerebbe. Ti sentiamo male, Daniele, ti proviamo a richiamare. Intanto Alberto Pellai, abbiamo sentito Maurizio Parodi che dice una cosa ben diversa, non solo come suggeriva lei la scansione, ma anche proprio evitare i compiti a casa. Com'è possibile? Cioè, si devono fare a scuola a questo punto, perché il livello di attenzione dei nostri studenti in classe non mi sembra così elevato da poter evitare i compiti. Ma parto intanto dal fatto che la domanda, cioè un po' il quesito da cui mi avete fatto partire, è quando i compiti ci sono stati assegnati. Allora io penso, come genitore anche di 4 figli, che il mio patto di alleanza di genitore con la scuola è che non posso autodeterminare io come genitore quello che la scuola si aspetta dalle strategie di apprendimento dei miei figli. In qualche modo mi affido a quello che gli insegnanti mi chiedono, per cui effettivamente se c'è una scuola che ha scelto quella strategia di far studiare i figli con modalità tutte innovative, la classe capovolta, imparare a scuola eccetera, è chiaro che poi la famiglia, scegliendo quella scuola o stando in quella scuola, si troverà immediatamente sintonizzata col metodo educativo di quegli insegnanti, ma io come genitore non posso scegliere il metodo educativo degli insegnanti, e quindi se i miei figli hanno i compiti delle vacanze assegnati, probabilmente come genitore devo far sentire che stanno dentro all'alleanza educativa, in cui è la scuola che ci dice quale sarà il modo con cui loro imparano. Detto questo, poi quello che dice Parodi effettivamente è una realtà, no? C'è la possibilità di fare scuola in un modo completamente diverso, con metodologie attive, con metodologie capovolte, dove i ragazzi effettivamente imparano nel tempo scolastico, ma non dobbiamo dimenticare che come genitori molti di noi hanno dei figli che per esempio frequentano una scuola che è di 5 ore al giorno, con tutto il pomeriggio completamente libero a casa, cioè dove non c'è la possibilità probabilmente nel tempo reale del fare scuola di arrivare a quel livello, cioè in 5 ore riuscire a apprendere tutto, imparare imparando e avere poi tutto il pomeriggio libero. Ci sono scuole invece che hanno mattina e pomeriggio, dove questa cosa è probabilmente più fattibile, proprio perché le didattiche attive richiedono anche tempi più intensi, e credo che in questo effettivamente la scuola ha la possibilità di offrire nuove strategie, e anche la famiglia in qualche modo fa un'alleanza con la scuola se decide di iscrivere i propri figli in un corso che ha il tempo solo mattutino, probabilmente poi è anche disponibile a farsi carico di una zona di apprendimento domestico da parte loro. Abbiamo ripristinato la linea con Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile comunicazione di scuola.net. Guarda, Daniele, c'è un radioascoltatore che dice: ma dai, sì, togliamogli anche i compiti, non sono già abbastanza svagati d'estate i ragazzi, abbiamo il minor numero di laureati. Che cosa rispondi a questa cosa, tu come studente? Ma in realtà vabbè, quello che si può dire è questo, no? Sicuramente d'estate i compiti potrebbero essere utilizzati per dei percorsi di apprendimento diversi da quelli classici o usuali. Noi abbiamo appunto una scuola che è molto focalizzata sulla nozione e poco invece sull'applicazione della nozione in contesti pratici, per cui ad esempio sarebbe molto più utile, piuttosto che ripetere l'ennesima traduzione, l'ennesimo esercizio matematica, provare ad applicare questo in contesti assolutamente diversi. Perché poi di questo i ragazzi hanno bisogno. Infatti dall'indagine che noi abbiamo fatto si è verificato proprio che laddove i professori hanno combinato dai ragazzi dei compiti creativi, faccio un esempio per dire guardare un esperimento di fisica su YouTube e provare a riprodurlo a casa, i ragazzi si sono sentiti molto più invogliati a fare questo tipo di attività, e probabilmente anche l'apprendimento potrebbe migliorare, anche perché insomma stiamo parlando di una scuola che non riesce appunto a formare adeguatamente i ragazzi al mondo del lavoro, al mondo della professionalità, e molto dipende purtroppo dal tipo di metodologia che in qualche modo rifiuta pensare ad un'applicazione pratica, rifiuta a pensare alla professionalità, al mondo del lavoro. Il problema della disoccupazione oggi in Italia non è tanto legato al numero di laureati, che è più basso rispetto alla media OCSE, ma più che altro alla qualità dei percorsi di orientamento. Ricordiamo che il 70% dei laureati trova lavoro dopo un anno dalla laurea, quindi se questo fosse il problema, quindi una penuria di laureati, tutti 100% troverebbe lavoro. Daniele, tu che cosa studi? Tu che cosa studi? Ma io purtroppo non studio più nei termini classici della materia. Insomma, noi come scuola.net aiutiamo gli studenti a studiare, però ecco, io un percorso da ingegnere e la vita mi ha portato a fare il comunicatore e il giornalista. Per questo dico, è importante seguire i propri talenti e soprattutto ragionare non solo in termini di conoscenze, ma soprattutto in termini di competenze. Quanti anni hai, posso chiederlo? Assolutamente sì, non sono una donna, quindi una domanda lecita, 34. Quindi insomma sei, diciamo così, questo è il tuo lavoro e ti occupi di studenti. Quando tu incontri i ragazzi, trovi che hanno un livello di istruzione magari più basso di quando ti sei laureato tu? Il problema non è del livello di istruzione, il problema è che ci sono dei talenti, almeno dal nostro punto di vista, siamo anche un'azienda impegnata in alternanza scuola-lavoro come molti in Italia, il problema è che i talenti sbocciano molto spesso indipendentemente dalla scuola, cioè diventano tali o sono tali grazie alla famiglia, grazie a dei percorsi. Ma insomma, questo è grave. Assolutamente, è grave, ma perché la scuola non orienta, cioè è una scuola che in qualche modo è una scuola purtroppo di classi, in cui l'orientamento ad esempio in uscita dalle scuole medie non viene fatto in base ai talenti, in base alle propensioni, ma in base al voto. Quindi se sei molto bravo non puoi non andare al liceo, se sei nella media ti consigliano o un liceo o un tecnico, ma però magari non ti consigliano il liceo classico, che è considerato essere il top insomma in termini di istruzione. Se non sei assolutamente all'altezza, vai al professionale. Questo non è un orientamento serio, perché i voti misurano solo alcune delle competenze. Anche però, purtroppo Daniele, anche dal punto di vista del ceto sociale, no? Perché è chiaro che in una classe bassa tende a mandare i figli più agli istituti professionali, e magari in una classe sociale più alta al liceo, anche se non sono bravissimi. Marta da Milano, lei contesta quanto ha detto Maurizio Parodi, perché? Sì, io lo contesto perché i compiti secondo me sono fondamentali per sedimentare quello che hanno imparato a scuola e verificare quello che hanno imparato la mattina, altrimenti non hanno i ragazzi da soli una controprova di quello che hanno imparato. con l'esercizio per esempio di matematica o con l'esercizio di geometria loro verificano da soli se riescono a risolvere quello che è stato insegnato a loro la mattina. Se poi si vogliono aiutare i genitori che non sono a casa perché devono lavorare, quindi non riescono a seguire i figli perché non sono sufficientemente istruiti, oppure perché non hanno tempo, perché hanno degli orari pazzeschi, che devono lavorare la domenica, la sera, i turni, eccetera, allora bisogna fare un discorso diverso. Va bene, è chiaro. Lei dice però i compiti servono. Certo, le equazioni differenziali, ci riscrive anche Gianni da Milano, si ascoltano una volta in classe e sono belle che imparate, ma questo questo insegnano i nostri figli, ci chiede Gianni. Allora, professor Maurizio Parodi, una replica, lei ce la deve dare. Molto volentieri, purtroppo si tratta di convincimenti prerazionali che non hanno nessun conforto nelle ricerche anche empiriche cui ho fatto brevemente cenno. Porto la testimonianza di insegnanti di matematica della scuola secondaria che non hanno mai assegnato compiti e non li assegnano durante le vacanze e che insegnano a imparare ai loro studenti in classe, evitando la lezione frontale come raccomandato dalle indicazioni nazionali. Purtroppo il problema non è quello del tempo. Se fosse un problema di tempo, non si spiegherebbe come mai nelle scuole a tempo pieno, cioè dopo 8 ore di mobilità forzata in queste aule ben poco confortevoli che si configurano come aree di compressione psichica, bambini dai 6 agli 11 anni siano costretti a svolgere compiti a casa tutti i giorni, nel weekend e durante le vacanze. È un atteggiamento, diciamo, ideologico. Lei non morde dalla sua linea. Luca da Brescia è in parte d'accordo con lui. Perché, Luca, i compiti sono troppi? Allora, io premetto che sono papà di 2 bambini, uno di 8, uno di 10, e che quindi io e mia moglie cerchiamo di dare il massimo in tempo e in capacità per fare questo genere di attività. Però sono d'accordo in parte con il professor Parodi, perché dico, ok, sarebbe bellissimo e secondo me è ragionevole pensare di non dare compiti a casa, però se questa, diciamo, rivoluzione fosse un tassello di una rivoluzione più ampia nella rivisitazione del sistema scolastico italiano, perché così come è strutturato oggi, inserire questa cosa, mettiamo che oggi da zero tutti i professori non danno compiti, sarebbe un disastro peggiore di quello che già non è oggi. Quindi prima rivoluzioniamo il sistema scolastico, facciamo in modo che le scuole abbiano degli spazi adibiti anche per i professori e anche per gli alunni stessi per fermarsi qualche ora in più a scuola, che possano quindi sedimentare a scuola, per l'amor di Dio, con dei tempi diversi e con delle procedure diverse le cose che stanno studiando, e mi ricollego alla signora che ha telefonato prima, e allora sì, allora questa cosa può essere intelligente e secondo me moderna. Abbiamo capito, quindi invece c'è anche Luigi da Bergamo che vuole intervenire. Qual è la sua opinione? Sì, buongiorno. Io volevo solamente, diciamo, lanciare una proposta dove eventualmente si poteva allungare magari di un mese e mezzo i tempi della scuola, però facendo delle percorsi alternativi, quelli che non riguardano il classico programma, ma magari laboratori e quant'altro. Quindi anche le famiglie che hanno problemi a collocare i bambini perché i genitori lavorano come la nostra, hanno un'alternativa valida e comunque i figli non perdono la possibilità di migliorare e di fare nuovi approcci. Alberto Pellai, medico ricercatore dell'Università di Milano, abbiamo sentito Luigi da Bergamo, allungare i tempi della scuola, ma non c'è bisogno, c'è bisogno di tutti questi mesi? Quanti sono poi? Perché nella mia epoca erano 3, adesso sono già 2, insomma si stanno sempre di più riducendo questi tempi delle vacanze. Allora, credo che le vacanze siano proprio uno spazio di rigenerazione. Sentendo anche l'ascoltatore di Bergamo, sentiamo che spesso anche allungare i tempi della permanenza a scuola dopo il mese di giugno a volte è un'esigenza fortemente sentita dalla famiglia che lavora, e a quel punto la scuola diventerebbe uno spazio con un progetto educativo per un tempo estivo dove i bambini rimangono coinvolti in qualche cosa che permette ai genitori di continuare il loro loro progetto lavorativo. Non penso che dovrebbe andare così. Io sono dell'idea che nel tempo estivo i bambini devono essere coinvolti in altre attività, i gresti, i campus di sport, lo spazio anche del gioco libero ed strutturato. Credo che due mesi e mezzo alla fine siano un po' i tempi delle vacanze. Anche le scuole, i sistemi scolastici di altre nazioni che magari hanno vacanze estive più brevi, poi però durante l'anno offrono spazi e tempi, proprio settimane in più di vacanza, dove i bambini ricaricano un po' le batterie. Credo anche che durante l'estate effettivamente sia utile pensare a compiti che magari sono diversi dall'usuale. Penso appassionare i bambini alla lettura, per esempio, che è il grande dramma della nostra scuola, cioè i ragazzi non leggono libri. Certo, quindi proprio abituarli magari all'idea che possono scegliersi loro i titoli da leggere da una lista magari infinita, o anche senza che ci sia la lista, potrebbero compilare un diario delle loro vacanze. Questo significa allenare la scrittura creativa, aiutarli a individuare piccoli aspetti della quotidianità dove esercitano poi fantasia, espressività. Ecco, ci sono probabilmente cose molto diverse da questi libri di 100 pagine, tutti organizzati a schemi ultra strutturati, effettivamente un po' noiosi. Ecco, tutto questo poi secondo me più in là va anche nell'idea che il cervello è un po' come un muscolo che va tenuto allenato e lo si deve fare in modo divertente, creativo, ma non possiamo togliere la fatica nel percorso di crescita di un figlio. C'è uno spazio del piacere che in qualche modo deve trovare un equilibrio anche con lo spazio del dovere. Nessun figlio avrà mai voglia di studiare, fare i compiti, studiare le lezioni. Probabilmente c'è anche un valore educativo nel saper gestire tutti i giorni o un po' durante l'estate anche lo spazio della fatica. Giancarlo da Verona, un insegnante, ecco, lei mi ha dato i compiti estivi, quanti compiti dà durante l'anno? È necessario darli? Che cosa succede a scuola? Giancarlo? È caduto Giancarlo da Verona. E allora, abbiamo sentito i vari pareri. Pellai dice: attenzione, c'è uno spazio ludico, magari si potrebbe far leggere i ragazzi un pochino di più. Parodi dice basta compiti, Daniele Grassucci dice anche basta compiti. Risentiamoci a tra poco, diamo la linea intanto alla regia. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ma cos'è quest'estate? Ciao bella, io ti conosco, tu fumi cannella. Mandala, mandala, manda Mandela. 5 in condotte, brucio la pagella. Happy day, faccio come un'era solo con i miei. Mi disp, non ti risp, stai sul display. Tienimi il volante e sparo a questi fake. Non fare mai sentire le tue chicche, no. Non cambiare mai, mai per due feedback, no. Ti mando a casa, poi diventi triste, Tu mi mandi a casa solamente pizza, Il disco esce a giorni, non ho scritto un... Insomma, estate. Compiti sì, compiti no, ma non solo. Poi parleremo anche dei centri estivi. Molti gli sms e dicono appunto quali 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Insomma, un radioascoltatore ci dice ci sono diverse vacanze a seconda dell'età. Poi, premesso che mi sono laureato con 110 in economia e commercio, ritengo che la scuola superiore insegni ai nostri figli cose totalmente inutili. Insomma, questa è una ventata d'ottimismo, potremmo dire ironicamente. Ho fatto con piacere, senza problemi, dice un altro radioascoltatore, una scuola superiore senza compiti. È tutto più facile invece un radioascoltatore che contesta: per i prof fa nel doposcuola già in orario antimeridiano, e poi i compiti in classe li effettuano tutto lavoro in meno, non si capisce, per i professori, per gli studenti, c'è un po' di confusione. Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile di comunicazione scuola.net. apriamo poi quello che è il secondo argomento. Abbiamo sentito Alberto Perlai che ha detto ci chiedono magari di prolungare la scuola fino a giugno, perché sono proprio gli insegnanti i genitori avere problemi a tenere i figli a casa. È così? C'è questa richiesta da parte dei genitori, questi 3 mesi, giugno, luglio, agosto, per coppie che lavorano sono molto difficili. Ma sì, è sicuramente un problema molto sentito dalle famiglie, tant'è che insomma il Ministero si sta cercando di attrezzare con dei progetti sperimentali. Ricordiamo l'iniziativa La Scuola al Centro, lo scorso anno circa 1 migliaio di scuole sono rimaste aperte nelle grandi metropoli con dei fondi appunto stanziati ad hoc dal Ministero. Anche quest'anno il progetto riparte per tenere le scuole aperte il pomeriggio e anche in parte d'estate, ecco, però sono tutti interventi in qualche modo spot legati alla progettualità delle singole scuole e non strutturali. E comunque c'è l'idea che in qualche modo la scuola, al di là appunto dei momenti didattici, possa fornire delle attività di natura diversa, che permettano agli studenti di sviluppare la creatività, l'autoimprenditorialità, le arti o anche semplicemente orientarsi anche al mondo del lavoro. Ecco, che sono tutti elementi ad oggi carenti, a tutti elementi che appunto non vengono rappresentati nella didattica tradizionale. Però ecco, se pensiamo al mondo delle professioni, al mondo al set di competenze che vengono richieste oggi ai ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, ecco, tutta questa serie di attività invece dovrebbero essere integrate nella didattica tradizionale. Quindi ecco, sono d'accordo un po' con chi è intervenuto precedentemente, cioè piuttosto che parlare di compiti per del pomeridiani o estivi, bisognerebbe proprio ripensare l'intero flusso della didattica, perché ecco, i compiti pomeridiani sono in qualche modo funzionali ad un certo tipo di didattica. Però se cambiano le esigenze e cambia la didattica, un po' tutto il sistema va ripensato, ecco. Quindi è un po' una lotta di religione, però le questioni sono ben più complesse del compiti sì, compiti no. Del compiti sì, compiti no. Grazie a Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile di comunicazione scuola.net, e vengo ad Andrea Catizzone, avvocato responsabile osservatorio sulle famiglie di Federconsumatori, esperto in diritto di famiglia e tutela dei minori. Parliamo non solo dei compiti, ma anche di quello che sono i centri estivi, di quello che sono i campi estivi, e si è capito che ci sono anche molti costi proibitivi per le famiglie. Si parla di una spesa di 624 euro al mese per bambino nelle strutture private e 304 euro per quelle pubbliche. Insomma, una coppia che lavora a un certo punto ha la necessità di mandare i propri figli in vacanza magari a luglio, quando tutte e due sono ancora impegnati nell'attività lavorativa. Che cosa succede? Costa troppo? Beh, sì, infatti intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ma sicuramente questi 3 mesi di vacanza che solo i bambini italiani hanno, in una società, come si diceva, in cui effettivamente le esigenze delle famiglie sono cambiate e soprattutto le madri lavorano, abbiamo anche visto dei tassi di occupazione femminile che sono, ce lo dice l'Istat, in crescita, è chiaro che c'è la necessità da parte delle famiglie di trovare appunto delle collocazioni per i figli durante l'estate. Quindi proliferano questi centri estivi e soprattutto aumentano i costi per le famiglie, perché appunto il periodo di lavoro è molto lungo, i bambini finiscono la scuola da giugno fino a settembre, ed è chiaro che tranne il periodo di agosto, in cui effettivamente tutti i genitori lavorano, sono in vacanza, sì, esattamente il contrario, per il restante periodo di vacanza dei bambini si creano dei grandi disagi. Allora molti vanno con i nonni, però chi non ha dei nonni dove i nonni non possono prendersi cura dei bambini, è chiaro che a quel punto devono andare nei centri estivi, e questi centri estivi, come abbiamo dimostrato noi nella nostra indagine, sono molto diversi sia in termini di servizi che offrono e soprattutto di costi. È chiaro che i bambini che avranno delle famiglie più agiate potranno andare a frequentare dei centri estivi di maggiore qualità, quindi dove si praticano degli, oppure addirittura andare anche all'estero, però se noi rimaniamo nel nostro paese, dove si praticano degli sport, dove si imparano delle lingue straniere, mentre invece gli altri saranno costretti ad andare a dei centri estivi un po' meno qualificati, ecco, anche se il livello sia un po' più alzato, per cui è molto importante il ragionamento che è già iniziato con il Ministero e con moltissimi comuni, anche nella città di Roma, in diversi municipi, di agevolare le famiglie attraverso anche l'apertura degli istituti scolastici. Del resto, guardi, noi, i nostri figli per esempio vanno anche in Inghilterra durante il periodo estivo, no? Perché non pensare di fare dei gemellaggi tipo Erasmus anche durante l'estate, dove comunque le famiglie riescono a mandare i loro figli senza costi esorbitanti come succede adesso, ecco. Piera Ceci è in studio con noi da Milano. Buongiorno. Piera è la nostra esperta e io intanto la vorrei chiamare come commentatrice, perché lei è proprio la nostra esperta di scuola. Piera, tu come genitore hai avuto difficoltà a mandare i tuoi figli in centri estivi perché dovevi lavorare come giornalista e anche tuo marito, quindi c'era questo problema? E poi che cosa succede? Sei favorevole o sei contraria ai compiti in vacanza e ai compiti a casa? Ovviamente ci vuole buon senso. I compiti sì, perché stare 3 mesi senza fare niente, come dire, addormenta un po' il cervello, anche perché, non so, io ho visto che i miei figli li fanno anche volentieri, se a piccole dosi, insomma, per tenere un po' in allenamento il cervello. Quello che volevo dire è che certamente c'è il problema estivo dei ragazzini, ormai i miei sono grandi, ho visto un'evoluzione anche da questo punto di vista, un'evoluzione e per certi versi un'involuzione, nel senso che quando erano piccoli c'erano i campus, i famosi campus che ci sono anche adesso, i cui costi però sono lievitati, anche perché si stanno sbizzarrendo e stanno come dire, caricando i ragazzini di attività secondo me incredibili. Allora ormai ci sono i corsi di teatro in Toscana, in lingua, però la sera fanno anche il corso di informatica, quindi la mattina fanno un'esperienza di sport, la sera di informatica, però lo fanno in lingua. A me sembra troppo, sinceramente. Peggio di andare a scuola, cioè, ma lasciateli quando tornano a scuola fare un centro estivo di quelli, insomma, un po' più rilassati, per carità, attività tutte interessantissime, mi sembrano francamente un po' esagerate e i costi naturalmente lievitano. Secondo me è un po', serve un po' anche a noi genitori per scaricare la nostra ansia di voler preparare i nostri figli a questa vita così complicata, però secondo me, insomma, davvero si esagera. Parlavate prima anche della difficoltà delle famiglie ad affrontare questi costi. Volevo ricordare l'importantissimo e preziosissimo apporto degli oratori. Gli oratori delle parrocchie stanno davvero aiutando moltissimo le famiglie in questo periodo estivo. Hanno dei costi calmierati, fanno fare delle bellissime attività, però magari, come dicevo, un po' più rilassate rispetto, un po' più destrutturate, ecco, rispetto a quelle organizzate da associazioni private, e davvero, insomma, nelle grandi città fungono, li portano anche in piscina, li portano a fare tantissime attività, davvero sono molto importanti, comunque la si pensi, nel senso che poi accolgono anche bambini di altre religioni, bambini che non vanno normalmente in chiesa. Volevo anche ricordare un'altra cosa, e se Elisabetta me lo concedi introduco un altro tuo argomento che volevi affrontare questa mattina, perché questa è l'estate anche dei ragazzi che stanno facendo alternanza scuola-lavoro. È un po' il primo anno che li vediamo in giro. Vi sarà capitato anche a voi che siete in ascolto di vedere negli uffici, nei centri medici, ma anche nei ristoranti, di vedere questi ragazzini un po' giovani, no? Che magari dalle faccette pulite che non eravamo abituati a vedere in questi ambiti. Ebbene sì, sono i ragazzi che stanno facendo l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Secondo scuola.net, saluto anche Daniele Grassucci se è ancora in onda, sono il 16% gli studenti che quest'estate stanno svolgendo esperienze di alternanza scuola-lavoro. Cos'è, Betta? Allora, ricordiamo che la legge 107, quella della buona scuola, ha introdotto l'obbligatorietà, terza, quarta e quinta, di tutti delle scuole superiori devono proporre ai ragazzi un'esperienza di 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici e professionali di alternanza scuola-lavoro. Mi ha stupito un po', devo dire, Betta, poco sì? fa il sottosegretario Baretta ai tuoi microfoni ha detto che, parlando del riscatto della laurea, ha detto una cosa che mi ha un po' sorpreso, perché ha detto come mai perché non pensare di riconoscere l'alternanza come condizione lavorativa. Mi ha un po' sorpreso, perché in realtà il dibattito, proprio da quando è uscita la legge 107, è proprio questo, cioè l'alternanza scuola-lavoro non deve assolutamente essere lavoro. Stiamo parlando di un'esperienza di avvicinamento al mondo del lavoro. I ragazzi devono annusare l'area del posto di lavoro, devono essere però seguiti dalla scuola, seguiti da un tutor, proprio perché non vengano utilizzati come lavoratori. Sì, ma stavamo parlando però del riscatto della laurea, forse Baretta sì. Riferiva ad altro. Allora, brevemente, Maurizio Parodi, abbiamo sentito questi centri estivi dove si lavora e si studia anche di più. Alberto Pellai suggerisce, almeno in vacanza, di dare qualche libro da leggere. E Piera Ceci ci ricorda l'alternanza scuola-lavoro. Le chiedo che cosa pensa di questi argomenti. Libri da leggere, sì, scuola-lavoro, che cosa ne pensa, e centri estivi. Ma guardi, visto che il tempo a disposizione è limitato, intanto si è fatta confusione tra buon senso e senso comune, e non si tratta di guerra di religione per quanto riguarda i compiti, ma di buon senso pedagogico. I compiti sono necessari, si diano; i compiti sono inutili o dannosi, si smetta di darli. Non è indispensabile una riforma del sistema o interventi salvifici da parte del Ministero, interventi ingegneria istituzionale. Molti insegnanti italiani sono la dimostrazione vivente che una scuola senza compiti non solo è possibile, ma è anche più efficace. E un elemento che probabilmente sfugge per ignoranza è che spesso gli studenti, che non sono gravati da questo carico di lavoro domestico soverchiante, approfondiscono autonomamente temi che poi vengono restituiti alla classe e impreziosiscono il curriculum disciplinare. Quindi non c'è bisogno di ricorrere a una pedagogia della sofferenza. No, io quello l'ho capito. Che cosa pensa però delle altre cose, dei centri estivi, perché stiamo dando la linea alla regia? Bene, dei centri estivi io penso bene, purché siano concepiti in una logica, secondo una logica diversa rispetto a quella della tipicamente scolastica, e purché si consenta ai ragazzi di poterli frequentare, perché il carico dei compiti estivi spesso è davvero insopportabile. Noi abbiamo organizzato l'anno scorso il Festival dei Compiti Assurdi e posso garantire che è inimmaginabile quello che gli insegnanti riescono ad escogitare con un accanimento morboso che rasenta la crudeltà mentale. Quindi ben vengano che la scuola sia uno spazio aperto, soprattutto per sviluppare quei talenti che la scuola spesso ignora, mortifica. È solo un'ottima cosa, insomma. Chiaro. Scuola-lavoro, così bene, la bene, saluto. Se ben strutturata può essere un'opportunità di formazione ben più efficace e potente di quello che sono i percorsi tradizionali, insomma, tradizionalmente scolastici. Allora ringrazio Maurizio Parodi, dirigente scolastico, autore del libro Basta Compiti. Do la linea alla regia per risentirci a tra poco. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Ma cos'è quest'estate? Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, medico, ricercatore Università di Milano, cosa pensa di questa legge che ci ha illustrato la nostra Piera Ceci sull'alternanza scuola-lavoro? Ma penso che sia una legge fondamentale, significa proprio permettere agli studenti di sperimentarsi in un contesto protetto con un progetto di tutoraggio e sentire che ci sarà un passaggio dalla teoria alla pratica. Non va dimenticato che il progetto educativo su ogni studente deve prevedere un sapere che può essere appreso e un saper fare che deve essere allenato. Poi io come terapeuta penso che l'elemento essenziale di un progetto educativo è dare ai nostri figli, ai nostri studenti, anche la capacità di saper essere, e per saper essere, saper essere deve essere vissuto. È fondamentale che ci siano esperienze dove ci si mette in relazione con gli altri, dove si apprendano competenze prosociali che sono spesso molto limitate, quei ragazzi che magari sono molto virtuali, vivono in una scuola che è ancora molto astratta e teorica, e comunque di tutto questo faremo tesoro per costruire una scuola migliore. Non so se una scuola migliore è una scuola senza compiti, di sicuro una scuola che deve guardare al saper fare, al saper essere dei nostri figli in modo complesso e più completo. Andrea Catizzone, grazie intanto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Andrea Catizzone, invece, lei voleva intervenire, avvocato e responsabile osservatorio famiglie Federconsumatori, proprio sui compiti. Perché? Che cosa, qual è la sua critica? Ma la critica che veniva di chi mi ha precedentemente intervenuto, mi pare che sia un po' esagerato immaginare questi maestri, professori torturatori nei confronti dei loro studenti. Chi fa per esempio il tempo ridotto, quindi il modulo esce alle 13:30, alle 14, è chiaro che questi studenti hanno tutto il pomeriggio in cui i compiti servono ad insegnano ad autogestire il proprio tempo e anche a responsabilizzare rispetto poi a una capacità di fare anche da soli. Quindi io sono sicuramente favorevole ai compiti, poi giustamente si parlava del rapporto sul buon senso. Certamente io mi fido della scuola e dei professori e dei maestri, e sono sicura che sappiano dosare in maniera adeguata i compiti, che sono comunque un esercizio fondamentale di educazione per gli studenti e le studentesse, ecco. Quindi, per la memoria pure. I compiti, sì, e certamente impediscono l'esercizio di altre attività pur importanti nella formazione dei minori, tutte le attività extrascolastiche sono certamente importanti, non solo lo sport ma anche le attività. A proposito una critica che invece bisogna fare, bisognerebbe che chi organizza i centri estivi pensasse anche un po' ad attività di carattere culturale e artistico in un paese soprattutto come il nostro. Noi riscontravamo come osservatorio la difficoltà delle famiglie di individuare dei centri estivi che non facessero solo esclusivamente attività sportiva dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio. Magari invece sarebbe importante che le associazioni che organizzano i centri estivi sviluppassero anche altre attività artistiche, culturali, la pittura, la ceramica, che invece per esempio, adesso faccio questi due esempi ma ce ne possono essere tantissimi altri, che durante l'estate vengono totalmente eliminati. Chiaro, ringrazio allora l'avvocato responsabile osservatorio sulle famiglie Federconsumatori, Andrea Catizzone. Piera, prima di salutarti, una domanda. Tu hai denunciato nei tuoi reportage proprio sulla scuola che questa alternanza scuola-lavoro in realtà è stata presa dai gestori magari di ristoranti come lavoro minorile, insomma. Ecco, qual è la difficoltà? Che cosa bisogna monitorare? Sì, è un lavoro che devo dire si sta facendo, quello del monitoraggio, perché insomma il Ministero dell'Istruzione ha istituito anche tutta una serie di controlli. La stessa Confindustria, che era ai nostri microfoni nel reportage che citavi tu, in effetti sta operando attraverso l'associazione per spiegare agli imprenditori che questa non è manovalanza gratis, ma la stessa Confindustria diceva, certo, un imprenditore che ricorre a un ragazzino di 16 anni per farlo lavorare, un imprenditore che non farà molta strada. E tant'è che ha lanciato pure un bollino blu per le imprese virtuose, che invece aiutano gli studenti ad avvicinarsi al mondo del lavoro in maniera corretta. Sì, dicevamo, cosa fanno quest'estate i ragazzi? Sono tanti modi per fare questa alternanza scuola-lavoro. Ce ne sono alcuni che però appunto appunto somigliano molto di più al lavoro che alla scuola. Parliamo ad esempio di alcuni hotel in Sardegna, una preside si è ribellata, ha detto io non sono un ufficio di collocamento e quindi non vi mando i ragazzi a fare cuochi o pulire le stanze. Molte le segnalazioni che arrivano anche dalla Puglia, ragazze che sarebbero state utilizzate per fare volantinaggi, per pulire i bagni, insomma quella non è di certo, non si può chiamare di certo formazione. Ricordo anche un altro modo, perché insomma le associazioni hanno lo sguardo lungo e le tasche aperte, come si suol dire. Per esempio quest'anno moltissime associazioni organizzano la scuola lavoro all'estero, cioè il corso che si faceva a Londra una volta, abbiamo fatto tutti da ragazzini, in cui si andava a studiare la lingua, adesso viene affiancata anche l'esperienza lavorativa, che è un po' così, perché di solito lavorano in charity shop, stirano camicie, però insomma anche... insomma cioè, ci sono molte novità. Io ti devo salutare, Piera, perché per gli ultimi minuti vogliamo proprio parlare di un argomento un po' più frivolo, però molto importante, con la nostra Giulia Crivelli, che abbiamo catturato catturato dalla rassegna stampa stamattina, perché lei è anche l'esperta di moda del Sole 24 Ore. Allora noi vogliamo parlare la moda dell'estate, tatuaggetto, short, camicia, che cosa va di moda quest'anno? Guarda, tra i vips e tra i comuni mortali. La prima cosa che mi viene in mente ascoltando la canzone Despacito è che Bershka, che è questo gruppo, questo marchio del gruppo Inditex, quindi Zara perciò spagnolo, ha lanciato una piccola collezione di t-shirt e altre cose tipicamente estive, proprio collezione Despacito. Quindi già questo, secondo me, per chi vuole essere super per, vuole trovare questa connessione con la canzone dell'estate, il tormentone. Poi l'hai detto, i pantaloncini, io sono molto combattuta qui, perché da una parte penso che sia una cosa bellissima, che anche chi magari non ha la coscia lunga alla Carla Bruni, diciamo, o comunque qualsiasi fotomodella o modella, non abbia problemi a mettere il pantaloncino corto. Forse... ma le orrendi leggings li abbiamo, ecco, finalmente archiviati, no? Sì, quelli assolutamente. C'è tantissimo lo sfrangiato quest'anno del jeans, ma di qualsiasi cosa, anche delle camicie. È una cosa un po' hippie, se vuoi, che va di pari passo con le mille vite che ha il jeans. Quindi quest'anno è sfrangiato oppure tutto patchwork, sia le camicie che la parte sotto, il jeans classico, il 5 tasche. Per i costumi però invece non ci sono più i tagli. No, non ci sono più i tagli, un po' meno, perché poi guarda, è un problema, io ci sono caduta nel jeans tagliato, quando lo infili il piede finisce sempre nel taglio, non è comodo per niente. No, poi questo taglio diventa sempre più una voragine, per sì, cui dopo un po' butti il jeans, perché è più il taglio che il jeans. Esatto, mentre per i costumi da bagno è un po' sparita questa cosa del super tanga, del costume, sia per le donne, c'è Bianca Balti per esempio, che è più bella di così, ha fatto questa linea che si trova su Yux, di costumi con delle belle fasce. Lei dice: li ho fatti perché avevo partorito e mi sembrava che insomma il mio corpo non fosse più quello di una volta, se lo dice Bianca Valdi. Quindi chiamiamoci il corpo di tutte quante noi comuni mortali. Sì, e poi c'è tantissimo per gli uomini invece e i loro figli, ma anche per le mamme con le loro bambine, la tendenza del mini-me, cioè avere il costume, specie pantaloncino, uguale per il papà e il bambino. È una cosa che si è inventata un marchio francese che si chiama Villebrequin, ma che adesso fanno un po' tutti e che trovo comunque molto divertente. Cioè tu dici che praticamente il genitore va lì con il bambino, sì, e, tipo gemellato, come esatto, quando c'erano i gemelli un tempo che si vestivano uguali, sì, per la gioia di chi non li riconosceva, invece questa volta magari li riconosci. Queste quindi sono le tendenze, infradito, flip flops, pure qui le abbiamo abolite oppure continuano, guarda, a spadroneggiare. Guarda, una cosa, devo zeppa, dire, sono... non zeppa, che succede? Un'altra, diciamo, l'equivalente del mostro a mille vite, un po' come i jeans o i parka d'inverno, sono le spadriglie. Anche quest'anno, tra l'altro, una volta erano veramente la specialità dei produttori di scarpe spagnole, quest'anno le hanno fatte tantissimo anche in Italia e sono molto comode. E poi c'è una, secondo me, una grande novità, perché tutti forse hanno provato le Birkenstock, che il piede ringrazia quando indossi le Birkenstock, l'estetica forse un po' meno, però adesso la Birkenstock si sta sforzando tantissimo, ha fatto delle collezioni un po' di moda e quindi io le consiglio perché veramente sono un piacere per il piede. E poi se vuoi ti do due piccole, ecco, anticipazioni. Io previsioni per, le, per l'autunno. Dall'altra parte del vetro che dice Birkenstock, cioè per gli uomini sono antisesso. Pensate alle Crocs, anche le quelle, Crocs no? Sono poi proprio più brutte. Invece che cosa ci aspetta in inverno per chiudere? Due proprio chicche. Sappiamo quanto si siano sempre più diffuse le sneaker, le mettono tutti ormai, anche mio papà che ha quasi 80 anni le ha scoperte, non le toglie più, anche lì per una questione di comodità. In inverno, autunno, arriveranno le sock sneaker, che sono un po' più alte e una parte è fatta come da una calza. Brutte, e poi già le vedo brutte. E poi l'eco pelliccia, guardate veramente, Giorgio Armani ha detto non userò mai più pelliccia, se lo dice lui che è King George. E questo noi lo ringraziamo, sì, Giulia. C'è Vogue Paris, Vogue France, il numero già di settembre, in copertina c'è una modella con una gigantesca pelliccia tutta ecologica, intervista a Stella McCartney, la stilista ecologica per eccellenza, e cangurino in braccio alla modella. Grazie a Giulia Crivelli che abbiamo trattenuto con noi in studio a Milano, e ringrazio anche Barbara Bianchi, Marco Lombardo, Antonella Migliaccio in regia e in redazione, e Valerio Rocchetti in regia linea al giornale radio.